fortemente, mi viene fortemente. Tutto vogliono parlare, tutto voglio criticare, il demone è maldicente. Non me ne importa niente, non me ne importa niente. Io so che d'interno è tanta ironia, sorrido di troppo e poi tiro via. Ma di quelle che si dice, che si sfurano le amici, che muovono la gente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Meno sette volte per sbagliare. Pur lo so, quante gente anche però dice tante, tante cose senza pensare. Wada la la la la la. Non me ne importa niente, non me ne importa niente.